oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Parto subito con i contatti oggi, 333 180 94 94 per i vostri sms e whatsapp, 051 34 64 58 se volete partecipare con noi via voce alla trasmissione Oltre la crisi. Comincia qua, saluto Francesco Campione che è il mio co-conduttore, si può dire. Il mio co-co-co. E l'altro co-co-co è... Regista, William Piana. Io vorrei essere il tuo co-co. Hai capito? Dichiarazione in diretta questa. Va bene. E speriamo di non ricevere gli strali. Allora. Ci difenderemo. Oggi siamo un po' ridanciani, ma andiamo subito al punto. Oggi vogliamo parlare di crisi della politica. Mio Dio. Mio Dio. E partiamo, è un argomento molto vasto e molto. Non ne vogliamo parlare dal punto di vista politico, ovviamente, ma ne vogliamo parlare dal punto di vista nostro, quindi di crisi del valore che rappresenterebbe la politica, no? Dei valori sociali, dei valori civili, dei valori di convivenza, attività, come potere. Come attività, come potere, esatto. Ma vorrei proprio partire, perché in questi giorni diciamo è tornato alla ribalta questo ruolo, se si può dire così, è tornato alla ribalta il ruolo del leader, il leader inteso un po' all'italiana però, perché Francesco, confermami, come le persone guardano al leader è molto diverso negli altri paesi rispetto che in Italia. Ci sono delle forti differenze di affidamento, si può dire così? Ma dipende dalle epoche, diciamo. Ci sono epoche in cui è la stessa cosa. Per esempio, quando è apparsa e si è imposta la figura di Benito Mussolini, no? Tutti ce l'invidiavano, ce l'hanno invidiato per tanto tempo, finché non ho visto i disastri ce l'hanno invidiato, e probabilmente potrebbe succedere, perché noi siamo innovatori in questo, no? Siamo quelli che spianano la strada. Potrebbe accadere, per esempio, che ci invidino i nostri leader anche oggi. Quindi io, più che di diversità nell'approccio, direi che ci sono diversità nella fase storica, nel momento evolutivo di un paese. Per esempio il nostro paese è un paese, come dire, diciamo politicamente, dal punto di vista della sua maturità politica, un pochino arretrato, e ci vuole un contesto di arretratezza. Per esempio l'altro giorno è venuta fuori una dichiarazione, una informazione, la seguente: il 70% degli italiani non sanno leggere un testo mediamente complesso. Questo ti fa capire che tipo di... perché ci sia una maturità politica è necessario che ci si parli, che si capisca ciò di cui si parla e così via. Noi siamo un paese, diciamo così, un pochino arretrato da tanti punti di vista, no? Non è che ce lo dobbiamo dimenticare, la grande cultura, la grande civiltà, così eccetera, però se andiamo poi a vedere la vita civile, la nostra vita civile è fatta anche di scolarizzazione sommaria, di pochi laureati, di gente che si scorda tutto dopo due anni perché non studia, non legge e così via. Allora, il contesto nel quale noi dobbiamo organizzare la nostra vita civile è praticamente questo. Allora, in questo quadro dell'arretratezza si spiega come il ricorso, che tutto sommato è un ricorso un po' magico, al risolutore dei problemi, a quello che arriva e risolve i problemi perché la sa più lunga, perché è più rapido, perché non si fa fermare da niente, perché è decisionista, eccetera eccetera. Questo naturalmente, il ricorso a questo tipo di modalità, che è quello attraverso cui poi si forma una leadership, una leadership un pochino carismatica, un pochino popolare, così eccetera, è quasi inevitabile in questo contesto. Sì, ecco, infatti volevo citarti tre nomi. Tu hai citato Mussolini, ma per venire un po' più verso i tempi nostri, mi vengono in mente altri tre nomi fondamentalmente, ma ce ne potrebbero essere altri, però eclatanti, che sono Silvio Berlusconi, Beppe Grillo e oggi Matteo Renzi, che appunto vengono accolti con questa aura magica di salvatori della patria, di supereroi, passami il termine, anche per certi versi, che hanno la soluzione magica per risolvere tutti i problemi. Possibile che persone adulte, anche mediamente ignoranti, perché voglio dire, non è... credo un problema di cultura, è un problema di credenza in un qualche modo. No, secondo me il problema non è questo. Per esempio, io confesso di avere, come dire, una parte di me che tende in qualche modo a crederci che ci possa essere uno che arriva e risolve, anche perché dal punto di vista di quello che insegna la storia insegna che in definitiva sono gli uomini che la fanno la storia, non è vero che sono le masse che fanno la storia, anche se qualche volta è stato desiderato, ma sono gli uomini che fanno la storia, non solo, ma tutti gli uomini che hanno avuto potere nella storia e che in qualche modo hanno fatto la storia, se andiamo a vedere, si sono imposti agli altri in qualche modo, no? Per cui, e da un certo punto di vista, per esempio, io credo che psicologicamente ciò che il movimento che porta verso la fiducia in un leader che risolva tutto sia fondamentalmente il sentimento di impotenza. Oggi, per esempio, in Italia c'è un diffuso sentimento di impotenza. L'aspetto più grave di questo, è inutile che citi degli esempi, dirò solo l'aspetto, perché tutti lo sanno che è così. Non si può fare niente, tutto è immobile, non c'è niente da fare, non c'è niente da, la sfiducia è totale, non si riuscirà a fare mai niente, ma tu pensi che ce la farà, non ce la farà, non, così eccetera. No? Il sentimento di impotenza è generalizzato. L'espressione più grave di questo è l'atteggiamento giovanile. I giovani hanno smesso, nonostante il fatto che non avrebbero tutto il tempo perché sono disoccupati, hanno smesso di occuparsi di cercare di capire come cambiare il mondo, perché anche i giovani sono convinti che tanto non serve a niente, che tanto lo deve fare qualcun altro, che tanto deve venire da qualche altra parte la modifica che cambierà il mondo, no? Allora, questo secondo me dipende dal sentimento di impotenza. Allora, di fronte all'impotenza c'è il desiderio della potenza. E il desiderio della potenza politicamente si incarna in una leadership forte. Cioè, in definitiva, è come, per dirla scherzosamente, è come se uno ha un'impotenza sessuale e desidera un membro sempre eretto. Io non sono d'accordo. Quando prima hai detto la storia non le fanno le masse, non sono propriamente d'accordo, nel senso che secondo me la storia la fanno anche le masse, dopodiché spesso c'è un gruppo di persone, che può essere una massa, un gruppo di interesse, eccetera eccetera, ha bisogno di una o più persone che abbia quelle caratteristiche che tiene insieme il gruppo per un fine comune, e qui ha un senso il leader, e quindi poi chiaramente passa alla storia il nome di quella persona. Però quella persona senza, diciamo, il bacino del gruppo dietro, forse da sola non avrebbe combinato nulla. Che dici? Ma ho l'impressione che sia un'analisi che ha una parte di verità, ma che se le masse sono fatte da persone che non hanno autonomia e che non sono in grado di partecipare in prima persona alla gestione delle cose, in realtà sono masse amorfe che vengono guidate al macello. Che vengono guidate al macello. Questo non c'è dubbio, però pensavo tipo, io adesso in questo momento non pensavo alla situazione attuale, pensavo eclatante, la rivoluzione francese non l'hanno fatta solo i leader della rivoluzione francese, i leader erano comunque conduttori di una popolazione che aveva delle istanze, aveva delle esigenze di cambiare il suo mondo. Sì, sì, le masse, secondo me, le persone, il mondo, la società sono portatori di disagi, di appunto di crisi. Un mondo è andato, va in crisi un mondo, ed è chiaro che tutti vivono male, ci sono elementi di ribellione, ci sono, questo non viene accettato, salta l'ordine, così eccetera. A questo punto, questo insegna secondo me la storia, a questo punto qualcuno prende in mano la situazione e non è quasi mai direttamente il popolo che cambia le cose. Non sono le persone che mettendosi insieme cambiano le cose, ma c'è qualcuno che sfrutta il malcontento, il disagio, il disordine, così eccetera, per tentare una nuova via che potrebbe anche avere qualcosa di buono, non è mica detto. Per esempio, non so, la dittatura di Pericle nel V secolo è una cosa buona. Ci possono essere delle dittature buone, no? Non è mica detto. Potrebbe anche darsi. Io non dispererei nel... Ecco, per questo penso, per esempio, che certe volte... per esempio, oggi si può criticare quello che avviene, cioè il determinarsi di una leadership forte, così eccetera, si può criticare dal punto di vista della democrazia, perché questo indebolisce la democrazia, no? È antidemocratico in qualche modo, invece che andare verso un accrescimento, verso un aumento dei fattori della democrazia. Per esempio, si eliminano le camere di rappresentanza, si eliminano le province, si elimina il Senato, cioè in definitiva si tende a dire che la cosa più importante non è parlarsi, anche se ci vuole tempo, ma la cosa più importante è decidere. È arrivato un SMS. Un SMS importante, provocazione, vai. Polemica. Vai. Buongiorno. A maggiore pertinenza alla realtà storica il prete e non la nostra plus comunista. Pensa al fenomeno religioso che è padre del potere politico. Quindi vi ha preso un po' sì, tutti sì. E due, no, e io ne sono arrivare. Innocente. Salutiamo Andrea. Esatto, perché... come sei perspicace. Ciao Andrea. E lo ringraziamo. Ci arriviamo, c'ho qui il prete apposta per arrivarci. Prete però... e veterocomunista. Esatto. Pensamo. Io veterocomunista. Vabbè, no, plus comunista. Plus non so comunista. Plus mi comunista. Piace plus comunista. Beh, è bello. Va bene. Allora, musica. Io prima della musica, perché dopo poi ci torniamo e non è che ignoriamo non la scampa. Assolutamente. Vorrei ricordare, a proposito di cambiare il mondo, la nostra sfida lanciata ormai due settimane fa, ci abbiamo dedicato proprio la puntata. Abbiamo deciso che continueremo a tenerla aperta e magari aprire delle finestre nelle varie puntate, ovvero i famosi 5 minuti al giorno di pazienza verso la rabbia altrui, dalla rabbia ingiustificata altrui. esatto, nei nostri confronti. Come è andata? Ci avete provato? Ci siete riusciti? Avete trovato 5 minuti al giorno? Sono stati 5 minuti giusti? Non li avete trovati? Non vi è successo? Noi aspettiamo sempre le vostre sollecitazioni su questa cosa e inframmezzeremo la nostra discussione insieme ai vostri messaggi o se volete intervenire. Al 333 180 9494. Vai, andiamo con la musica. 0513464458. Vai con la musica. Let me begin to ease your mind. Whatever the devil pays for left-handed ways, you got to know I'm dealing for my life. Save your love for a minute. Keep all your thoughts on the line. I couldn't begin to live for another. the habits of a lifetime. I've been trying hard to make them history. I'm thinking if I got to smooth out the rough spots, baby. Say, girl, you get the best of me. Che bella musica, Willy. Grazie, apprezzo i complimenti così spontanei. Ridi cosa ci hai messo? The Average White Band, una band mediamente bianca, si autoprendono in giro in questo modo perché in realtà fanno del funky, ma sono bianchi, visi pallidi come noi. E così dicono: mediamente siamo bianchi, ma in realtà siamo molto black. Ho capito, black inside. Black inside. The Average White Band. I wanna be loved. Voglio essere amato. Anch'io sono, come diceva Andrea, rossa ma anche black inside. Allora, torniamo a bomba al nostro argomento, crisi della politica e esaltazione forse delle volte spropositata della leadership, o aspettative spesso spropositate nei confronti della leadership. E Andrea col suo messaggio ci poneva un quesito interessante. Ma lo possiamo rileggere per favore? Vediamo se riesco in questa impresa informatica. Se vuoi, per te me lo indifferente. Va bene. E adesso allora, eccolo qui, ma come sono diventato bravo, guarda. Buongiorno, a maggiore pertinenza alla realtà storica, il prete e non la nostra plus comunista. Pensa al fenomeno religioso che è padre del potere politico. Se volete ve lo rileggo. No, no, chiaro, ed esattamente quello che avrei voluto chiederti: quanto la nostra cultura, ovvero cattolica appunto, impregna questo senso di impotenza, come l'hai definito tu, e di ricerca del salvatore, un po' come... Certo, certo, c'è questo punto. D'altra parte, come dire, come ha detto qualcuno, la religione sulla consolazione la sa più lunga, no? Cioè, se tu hai un grosso disagio e cerchi consolazione, dove la trovi? Nella consolazione, nella razionalità, nella costruzione lenta di un mondo a venire che implica fatica, messa in discussione dell'esistente, così eccetera, oppure in una straordinaria promessa di vita eterna. No, dove la trovi la consolazione? La ecco, seconda che hai detto, certo, direbbe ecco, allora il problema secondo me è che cioè, come dire, forse bisognerebbe trovare una strada per fare in modo che quando le cose sono stanno troppo male, stanno messe troppo male e stiamo troppo male, per esempio siamo troppo impotenti e abbiamo bisogno di consolazione e abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia intravedere che tutto è possibile e così eccetera, che contemporaneamente però non smarrissimo la ragione. Cioè bisognerebbe, perché in effetti non è che si può fare, ci sono questi periodi in cui, quando Berlusconi diceva guardate che non va tutto male, no, tanti si consolavano, no? Poi naturalmente, insomma, diceva solo questo, non si è fatto niente per fare andare meglio le cose, no? Quindi il problema è, in questo momento, il problema sarebbe, appunto per andare oltre la crisi, in questo momento sarebbe quello di conciliare, ecco, per esempio, andare a votare e votare per il meno peggio, invece che astenersi, nonostante lo schifo, potrebbe essere un modo per associare un po' di ragione alle vie della consolazione, perché altrimenti la situazione attuale è spaccata in due. Ci sono quelli che non credono più a niente, non vanno neanche più a votare, e ci sono quelli che credono nella Madonna o nel Cristo Salvatore, come si potrebbe dire. Però voglio fare un passo intermedio ancora. Che botta arriva dall'essersi affidati in maniera così totale a un essere umano, chiunque esso sia, quindi con tutte le sue parzialità, con tutte le sue, la sua non perfezione e altro. E poi appunto ti svegli una mattina e ti accorgi che in realtà hai affidato le tue speranze a un essere umano con tutte le sue parzialità, le sue imperfezioni, e quindi in realtà quella magia in cui, a cui ti sei affidato non esiste. E alla lunga, intanto, che botta psicologica è? Sociale anche, individuale e sociale. E seconda domanda, una sequenza di queste botte che danni porta? Ah, io però sarei un pochino più ottimista. Cioè, nel senso che non porta solo danni, no? Non porta solo danni. Può portare, può essere anche un modo per scuotere, può essere anche un modo per muoversi. Perché se le persone non si muovono perché le ragioni buone per muoversi non sono sufficienti, bisognerà che si muovano in qualche modo. Quindi, da un certo punto di vista, io penso che certe, il problema è, non è tanto quando, che botta arriva, ma quando arriva. Il problema è questo. Per esempio, se arriva fra 4 anni la botta, in questi 4 anni qualcosa succede. Se arriva domani è tutta un'altra storia. Quindi da un certo punto di vista penso che intanto la botta arriva, ma non arriva perché ci siamo soltanto perché ci siamo affidati a qualcosa che è probabilmente un pochino sopra le righe, un po' oltre, un po' eccessivo, ha delle promesse un po' troppo opportunistiche, poi in definitiva non è solo questo, perché la botta arriva comunque. Cioè, noi non dovremmo dimenticare la saggezza fondamentale del vivere, che consiste nel sapere, e lo sanno tutti, che i periodi buoni non durano in eterno e i periodi cattivi non durano in eterno. Con questo io andrei in pubblicità. Addirittura? Ah, sono già i 28, guarda un po'. Perché dopo io torno su sta cosa della botta, perché non mi hai convinto fino in fondo sul fatto che può essere anche... Sì... Lo so che può avere anche... però dopo ti faccio un esempiuzzo bello, limpido, così partiamo da lì. Botta e botta, insomma. Vai. Musica, pubblicità, botta, poi torniamo insieme. Anche il grandissimo Marvin Gaye, di cui oggi è il compleanno, è troppo impegnato per pensare alla sua ragazza. Noi torniamo in diretta. Ci può dire auguri Marvin? Assolutamente, lui è in un'altra dimensione e ci sta ascoltando. Come ci sta ascoltando in questa dimensione Andrea, che continua a scrivere cose bellissime peraltro. Grazie intanto. La splendida plus comunista, e posso assicurarti che è splendida, l'ho qui di fronte a me, è un po' così, un po' ironica, cinica, ma è splendida. Confermo, erroneamente battratta da una visione destituito di valore pragmatico, quindi valido solo in senso religioso come il comunismo. Ricordo al prete la fondamentale premessa delle scarsità delle risorse che diceva Lorenz, non prete, crea competizione in senso assoluto e in particolare in un essere aggressivo come l'uomo. Poi aggiunge un viva Willy, che è così un po' come... è così. È come viva Zapata. È come viva Verdi. No, è come viva Zapata. Ti ricordi durante il Viva Verdi. Viva Verdi, scrivevano, no? Willy, grande musica, e complimenti per la nuova trasmissione. Complimenti a te Andrea, un grande abbraccio e grazie per gli SMS. Adesso a voi la parte più, diciamo, quindi così. Quindi ci piace Andrea la nostra trasmissione. Ma certo, ma non vedi che malgrado la post comunista il prete. No, voi siete i veri idoli. Voi siete i veri idoli della trasmissione in quanto leader, per cui a voi le risposte a questa. Bene, riprendi. Caro Don, io ho perso un pezzo, però la prima parte non l'ho capita. Allora adesso ci torniamo. Me sulla la prima parte. Mica fa. E poi ne è arrivato un altro, ecco. Intanto. Siamo veramente gettonatissimi oggi. La splendida plus comunista. No, mi piace. Erroneamente attratta da una dalla religione visione del comunismo. Sì. Esatto. No, assolutamente. No, è tratta da una visione destituita di valore pragmatico, quindi valido solo in senso religioso come il comunismo. Ricordo al prete la fondamentale premessa della scarsità delle risorse che, diceva Lorenz, non prete, crea competizione in senso assoluto e in particolare in un essere aggressivo come l'uomo. Da quel che ho capito io, insomma, cerca di riavvicinare i vostri principi sacrosanti più però alla concretezza. Dice, ma certo, come stanno scarseggiando le risorse? Qua è una questione, come si dice, mors tua vita mea, no? Certo, certo. Non c'è dubbio, e sono anche d'accordo sul fatto che il comunismo è stato interpretato alla fine distorto. E se Marx diceva la religione è l'occhio dei popoli, vabbè, gaffe, e pomeridiana. Però alla fine chi ha messo in pratica il comunismo ne ha fatta un'altra religione, seppur laica, ma perché non c'era un dio, ma il dio era appunto la leadership o il gruppo di persone che dirigeva. No, ma perché nel comunismo la maggior parte delle persone che hanno creduto nel comunismo non hanno creduto in quello che diceva Marx, che non avevo manco letto. Vi consiglio, scusate se vi interrompo a tema, un libro che ho presentato stamattina, ho avuto la fortuna di presentare, e tratta proprio di questo argomento, di Arthur Koestler, si chiama Buio a mezzogiorno, è praticamente il dialogo. Koestler, sì. È praticamente il dialogo fra questo ex funzionario di partito che viene indotto a una confessione in quanto nemico del popolo e vittima delle purghe staliniste. Quindi, insomma, riprende molto gli argomenti. Sì, è un famoso libro sulle purghe staliniane, cioè sul fatto che poi... Staliniane, scusate, ho detto staliniste. Sì, sì. Allora, qual è il problema, secondo te? Secondo te qual è il problema? Che allora il comunismo intanto è stato vissuto dalla maggior parte delle persone che l'hanno sposato come qualcosa di consolatorio. Non c'è dubbio. E quindi per questo è stata una religione. Poi quelli che hanno voluto sul comunismo costruire il loro potere hanno sfruttato questa problematica che non c'entra assolutamente nulla, perché il problema del comunismo è che il comunismo non c'è mai stato. Questo è il vero problema, sì, del comunismo. Quello teorizzato, il comunismo. Rimasto teorizzato, e qui torniamo alla richiesta di pragmatismo. Allora, io però ricorderei ad Andrea, come lui mi ha ricordato Lorenz, gli ricorderei che il pensiero di Lorenz è alla base del nazismo. Cioè, Lorenz è l'intellettuale organico proprio del nazismo. Quindi stiamo attenti ad avere questi riferimenti, perché sono riferimenti un pochino così dubbi, su cui bisogna riflettere. E cioè bisogna riflettere bene sul fatto, corrisponde a una qualcosa di veritiero. È vero che c'è una competizione per la sopravvivenza, però questa è la giungla. La cultura umana è precisamente il tentativo di uscire dalla giungla. Poi ricorrentemente noi non ci riusciamo, per cui per esempio oggi di nuovo c'è chi ci vorrebbe far rientrare nella giungla. Quanto alla scarsità, non è vero che c'è solo scarsità nel mondo, c'è anche sovrabbondanza nel mondo. Il problema è che sovrabbondanza e scarsità sono separate. Nel mondo occidentale o nel primo mondo c'è sovrabbondanza, nel secondo e nel terzo mondo c'è scarsità. Ma perché non funziona la questione mondiale? Perché non c'è osmosi tra sovrabbondanza e scarsità. Chi c'ha tanto se lo tiene, chi non ha un cazzo muore di fame o di sete. Allora il problema non è tanto fissarsi sulla scarsità e pensare che quello sia la natura dell'uomo. Quello è la necessità dell'uomo, il pericolo sempre ricorrente di cadere nello stato di natura. Però c'è contemporaneamente, per fortuna, uno sforzo umano da sempre della civiltà di costruire un mondo che non sia dipendente dallo stato di natura. Cioè che tu, quando arriva la notte, non rischi di morire perché è arrivata la notte se sei nella giungla, ma c'hai la casa, ti metti sotto un tetto e qualcuno... è chiaro. Allora questo c'è un fuoco. Certo, quindi, come dire, io darei per scontato che tutto questo è assodato. Non tornerei sempre da capo sul fatto che bisogna tenere conto qual è l'origine dell'uomo e del mondo. L'uomo viene dalla giungla, ma ci prova continuamente a uscire dalla giungla. E su questo, secondo me, che dobbiamo ragionare. Sulla positività della civiltà umana. Provo a interpretare un SMS che è arrivato sempre da Andrea, che ci sta aiutando nella conduzione, nel proseguo della trasmissione, e aggiunge: ma non c'era bisogno, Andrea, che lo scrivevi. Dice: lungi da me il nazismo. Probabilmente lui ha fatto una citazione. Non avevamo dubbi, Andrea, tranquillo. Tu hai voluto fare una citazione, un motivo di discussione molto apprezzabile. Certo, ma anch'io penso che non c'entri niente con la persona che ha citato Lorenz. Certo. Però io volevo solo ricordare che c'è un legame tra il considerare la vita umana come, in un certo modo, cioè certe antropologie, e l'antropologia di Lorenz è un'antropologia, per esempio, tra l'antropologia biologistica, quando si concepisce l'uomo solo come un essere biologico, certo, si finisce per considerare che il più forte vincerà comunque. No, questa non è la civiltà. La civiltà è contro questo. Questo è, cioè, come dire, bisogna sottolinearlo sempre, perché altrimenti con questa idea... Non c'era bisogno di creare la civiltà, è la legge di natura, fine. Altrimenti lasciamo perdere e non se ne parla più. Senti, io vorrei ritirarti fuori dalla giungla, sì, e riportarti nei palazzi, la dico così. Nei palazzi, poi è una mezza giungla, che nei palazzi, esatto, del potere. Ho fatto una sorta di volo pindarico, perché ti voglio riportare una roba che mi è rimasta in sospeso da prima. Ovvero, tu prima dicevi molto spesso, cioè l'affidamento a una leadership forte, anche come dire, un affidamento quasi magico, eccetera, eccetera, non porta solo danni, ma porta anche delle novità, dei movimenti, eccetera, eccetera. Io, così, mi veniva in mente l'esempio più eclatante, ovvero il mitico Silvio Berlusconi, che ci abbiamo messo 20 anni per arrivare al punto clou, diciamo, allo scoperchiamento e alla, speriamo, crisi. Non sono ancora convinta del tutto. E dicevo, in questi 15-20 anni cosa è successo di buono? Cioè, che cosa ha portato questo affidamento a Berlusconi di buono, di progressivo, di... Ma secondo me tante cose. Tante cose negative, ma anche tante cose positive. Per esempio, è diventato evidente che c'è un pezzo d'Italia con cui un altro pezzo d'Italia non può convivere. È diventato evidente, cioè è diventato evidente che noi viviamo, cioè quando si porta fino alle estreme conseguenze un tentativo di fare di una cultura dell'intrattenimento, una cultura della leggerezza, una cultura della libertà individuale, una cultura della libertinaggio, no? D'accordo? Perché questo è stato una cultura della concezione dei rapporti tra i maschi e le femmine di un certo tipo, del corpo umano e femminile, del corpo del potere di un certo tipo. Quello ha cercato di diventare re, cioè ha cercato di diventare re, precisamente quello da cui da solo qualche secolo eravamo usciti. Ma era vero che eravamo usciti? Se uno ha provato a diventare re e c'è riuscito, e c'è quasi riuscito, quasi, perché non c'è riuscito per fortuna, evidentemente non eravamo usciti. Allora io per esempio penso che questo, come dire, questo tentativo noi dovevamo farlo. Siamo, adesso è chiaro che ci sono quelli che vogliono il re. Il problema è come ne usciamo. Certo, non ne usciamo scegliendoci un altro re, scegliendoci o ipotesi di re. No, io direi che stavolta siamo al dottor Sottile Fiorentino, siamo al Machiavelli, non siamo al re. È un altro tentativo, italianissimo anche quello, di prendere uno in sul lione, in sulla volpe, come diceva Machiavelli, cioè un po' forte e un po' furbo, in sul lione e in sulla volpe, spregiudicato. Perché, come diceva Machiavelli, uno che ha il potere, che gestisce, deve essere spregiudicato, il quale pensa, ci sta dicendo, che attraverso di quello, precisamente come ci diceva Machiavelli, e come grandissima parte degli intellettuali di sinistra ammirano, sta provando a fare del bene a questa società attraverso una forma, come dire, minore di machiavellismo. Attraverso una forma minore. Ora, questo è il tentativo in atto. Il tentativo in atto è questo qui, che tra l'altro è un tentativo anche questo italianissimo. Cioè, in definitiva, è come dire, è come se Berlusconi e Renzi fossero due facce della stessa medaglia. Uno è Borgia, che era il principe a cui Machiavelli parlava, e l'altro è Lucrezia Borgia, cioè la sorella corrotta del potente. No, tant'è vero che tra di loro se le intendono perfettamente, sono fratello e sorella. Devo dire che questa immagine mi affascina molto, Willy. Tanto proseguiamo, scusate se vi interrompo, con il nostro quarto conduttore, che è Andrea, che ringraziamo di nuovo, e continua con il suo contributo scrivendo, oddio mi è sfuggito il suo scritto, comunque mette tra virgolette: dal ramo d'oro a Lorenz la strada è un cerchio, cerchiamo di abbandonare all'oblio Berlusconi, cerchiamo di capire che il problema siamo noi occidentali, pancia piena e paura di perdere anche un solo spillo. Vabbè, ma d'accordo Andrea, però mi sembra che tu sei colto ma non usi molto bene la tua cultura, cioè te lo voglio dire chiaro e tondo, no? Cioè che alla fine tendi a semplificare tutto in modo eccessivo. Questa via di semplificazione mi sembra un po' pericolosetta, cioè non coglie molto. Non è che possiamo ridurre la civiltà occidentale, il tentativo di una grande storia, alla paura di perdere quello che abbiamo. Non è così, perché ci sono tantissime vie di questa, che sono vie anche della dissoluzione, vie della distruttività, vie della depressione, dentro questa epoca e questa. No, no, non è solo quello. C'è anche quello, non è, volendo. Una componente. È anche quello, ma non semplifichiamo però. Non semplifichiamo tutto come se tutto fosse spiegabile. Non semplifichiamo. Cioè, cerchiamo di parlarci a un certo livello. Cioè, tenendo conto grosso modo delle cose più importanti. Sicuramente posso spezzare una lancia rispetto a questo messaggio. Sicuramente è più facile, dirò una banalità, Francesco, passamela. È più facile per una persona che non ha nulla da perdere rimettere in discussione tutto. Tu prima all'inizio della trasmissione parlavi di mettere in discussione se stessi, la propria civiltà, la propria convivenza. È più facile per uno che non ha nulla da perdere, perché appunto non ha da preoccuparsi di ciò che perde, piuttosto che da qualcuno che invece ha qualcosa da perdere. No, io adesso ti dico un'altra frase storica: uno che non ha nulla da perdere non ha neanche nulla da dare. Guarda, è matematico. Se tu non hai niente da perdere, non hai niente da dare. Il problema non è che tu fai la cosa giusta perché non hai niente da perdere, e se no, se hai qualcosa da perdere, allora difendi ad oltranza, eccetera, eccetera. Il problema è se ti rendi conto che la vita ha più valore quando costruisci qualcosa, quando la rendi sensata, piuttosto che abbia valore soltanto quando sei felice. E basta. Perché la felicità è, in qualche modo, la via della felicità, che è la via dominante, in cui oggi, per questo il mondo non cambia, perché tutti condividono, sia quelli che sono, sia i potenti, sia gli impotenti, condividono la stessa ideologia, hanno lo scopo di essere felici. Il che, torniamo al nostro punto, la vita non è felicità, la vita è felicità e infelicità insieme. Un po' va bene, un po' va male. Non dipende soltanto dal fatto che abbiamo fatto questo o che abbiamo fatto quest'altro. Cioè, qui c'è un senso di onnipotenza che noi, se lo cavalchiamo, andremo a sbattere comunque, anche se scegliamo il migliore degli uomini a governarci. Quindi per questo io dico che non bisogna demonizzare neanche, perché noi abbiamo l'abitudine di... Un altro modo per semplificarsi la vita è quello di trovare dei capi espiatori. Di trovare... Non è che in questi anni non è andata male solo perché c'è stato Berlusconi. Berlusconi è l'espressione di questo tempo, non è la causa di questo tempo. Non c'è dubbio. È l'espressione di questo tempo. Così come Renzi è l'espressione di questo tempo, non è la causa, non ha tutto questo potere di causare tutto quello che vuole. No. Per cui, se per caso avremo la stangata alla fine, è perché noi abbiamo creduto che sia possibile cambiare le cose nell'unico modo in cui ci propone qualcuno, e che non ci siano altri modi. Questo è il vero punto. Allora, o troviamo una strada che ribalti questo, oppure ci becchiamo quello che inevitabilmente predominerà. In una certa epoca inevitabilmente ha prevalso Berlusconi, infatti è stato un grande della nostra storia, un grande, perché lui è stato il rappresentante di una certa epoca della nostra storia, no, non c'è dubbio. Che ci piaccia o no? No, una storia di merda. Condivido. Rappresentante di te. Ehi. No, una storia di merda, una grande storia di merda, e quindi che aveva bisogno, doveva inevitabilmente produrre quello. Così come adesso la gente non vuole saperne niente di partecipare, non vuole modificare le cose, così che l'unica cosa che si può fare è che arriva uno e dice faccio tutto io e non se ne parla più, punto. In estremis un sms, salutiamo Andrea in occasione di questo arrivo qui ai 56. La mia giacca di cotone biologico, scrive, proviene dagli Stati Uniti. I bambini di alcuni paesi non hanno neppure in un anno l'acqua usata per idratare il cotone del mio abito. Ah, verissimo, ah, non c'è dubbio. Non si può dire nulla, cioè, è tristemente... Certo, come è tristemente... si chiama questa ragazza? Ines? No, questa è Andrea, è Andrea. No, Andrea. È sempre Andrea. Io lo nominerei conduttore. No, aspetta un attimo, io lo nominiamolo pure conduttore. Il problema, la domanda, io faccio una domanda adesso a Andrea. E tu, dormi? Andrea, sei chiamato in causa, rispondi. Io non dormo, eh. Io non dormo. Se penso a quello, se mi viene in mente che ci sono 1 miliardo di bambini che non hanno l'acqua o che vivono con 1,5 euro al giorno, non dormo, d'accordo? Allora, vogliamo spandere questa vogliamo dare questa notizia? Guardate che dopo abbiamo bisogno di psicofarmaci, perché molte persone non dormiranno. Allora, ne parliamo o non ne parliamo? Tu dormi? Tu che lo sai, che ce lo ricordi. Se dormi, non lo sai neanche tu. O meglio, è un flash del momento che però poi si rimuove. No, ma se lui non dorme e pensa che sia giusto non dormire, dirlo anche ad altri e che, tutti, e che nessuno alla fine dorma, perché se nessuno alla fine dorme qualcosa facciamo, eh? Ah, non c'è dubbio. E perché dormiamo lo stesso che non facciamo niente? Questo è un dialogo a microfoni aperti ormai. Non dormi perché menti a te stesso. Io sono sincero con me stesso. Bene, allora non dorme neanche lui, siamo in due che non dormiamo. Ok. Benissimo. Allora, io non dormo perché ho dei problemi alle gambe ultimamente, però non c'entra così. Stavo stemperando la testa, non mi guardare, non per i bambini, non continuare a guardarmi così. Ma no, ma mi dispiace, volevo stemperare la tensione che si stava creando. Ma perché devi stemperare? Non ho capito. No, io ed Andrea non dormiamo. Va bene. Ecco. Per questo, okay. Se voi dormite, cazzi vostri. Ecco. Ti ricordo, Willy, che questa, anche se più o meno l'orario è simile, non è la trasmissione di Onder, quella sulla sanità, sulla salute. Non mi ricordo la mia famosa ipocondria, no? Ok, grazie. Quindi, grazie. Hai 33. Hai fatto bene. Medicina 33. Io avrei un problema legale. Non è medicina 33. Comunque era un velato tentativo di alleggerire, ma vabbè, fallito clamorosamente. Fallito clamorosamente, non ci vogliamo alleggerire, torneremo anche su questo argomento perché non credo che abbiamo... No, perché la domanda, secondo me, la domanda con cui ci dobbiamo lasciare è questa. È vero, questa è la fotografia, quell'ultimo messaggio è la fotografia di com'è il mondo, ma rispetto a questo, perché la maggior parte delle persone riesce a dormire? Cosa che è la causa per la quale non si fa niente per modificare? Sì, che ovviamente con dormire intendi condurre la propria vita abitualmente, tranquillamente. Intendo che tu la sera vai a letto e se pensi... Sei sereno. E se pensi quello... Io l'altro giorno ho sentito questa notizia. Nella Terra dei Fuochi, in Campania, c'è un punto in cui ci hanno fatto, per anni, c'è stato un campo nomadi, fatto apposta lì. Io quando l'ho sentito, volevo suicidarmi. Cioè, è possibile che tu, uno scegli di fare, di mettere dei bambini, delle persone, sopra una discarica di prodotti, di rifiuti tossici? L'hanno scelto di mettercela. Si può dormire? No. E invece si dorme. E con questa... Dobbiamo musica, andare a dormire, sigla, la trasmissione. Ma andiamo a dormire la trasmissione. Esatto. E però la risvegliamo mercoledì prossimo, dall'una alle due. Vi ricordo appunto i famosi 5 minuti di pazienza verso gli sfoghi aggressivi, ingiustificati. 5 minuti di pazienza, raccontateci che cosa è successo a voi, al vostro interlocutore arrabbiato. O al vostro cane. O al vostro cavo, chiunque abbia manifestato rabbia nei vostri confronti ingiustificate, voi non avete reagito con ulteriore sfogo di rabbia. E con questo un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ricordo anche la mail, aspetta, perché magari... Prego. In settimana ci vogliono scrivere. Amici di rivivere, @gmail.com. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Grazie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la